Jean-Luc, dove sei? Ti sto aspettando! Marco! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Per me è un grande orgoglio aver vinto, spero, come ho detto prima, di essermelo meritato e più che altro, insomma, credo che sia per me, per quello che ho fatto e che sto facendo, per tutte le persone che mi vogliono bene, hanno avuto fiducia in me, sono riconoscimenti molto, molto importanti. Allora, voglio denunciare a tutti che Pierluigi Pardo ieri, il malefico Pierluigi Pardo ieri, non mi ha mandato l'SMS con il nome del vincitore, quindi ho dovuto attendere l'orario in cui è stato reso noto a tutto il mondo. Bell'amico che sei, eh? Ma, bravo, l'attesa, ma guarda che l'attesa del vincitore del Golden Foot è essa stessa il vincitore del Golden Foot, quindi l'ho fatto per te, l'ho fatto per non rovinarti l'attesa del piacere. Uno dei più grandi paraculi che io conosca in vita mia, abbia mai conosciuto. Paraculo è un avverbio come è un francesismo, ma no, ma ti voglio bene, lo sai. Ma senti, ma toglimi una curiosità davanti a tutti, ma tu quando l'hai saputo, si può dire? Qualche ora prima. Vabbè, dai, sai, Pierluigi, dato che il pallone d'oro per i portieri è vietato, e questo lo sappiamo, la viasce in a parte, è comunque un grande riconoscimento a un grandissimo della storia del calcio, dai. Ma guarda, il Golden Foot chiaramente non è nemmeno... Non è il pallone d'oro, no, stiamo facendo della filosofia. Che tutte le volte mi impressiona, un po' di anni che non andavo, e la promenade di Monte Carlo è impressionante, nel senso che tutti i grandi giocatori della storia sono passati lì, alcuni non ci sono ancora, ma ci passeranno nei prossimi anni, perché il regolamento del Golden Foot vuole che devi avere almeno 28 anni per essere inserito nella nomination, quindi mancano ancora Messi e Cristiano Ronaldo, però ci sono Pelé, Maradona, Zico, Zoff, Paolo Rossi, Gigi Riva, Zidane, Rummenig, Buffon, appunto, Iniesta, Totti, cioè è una roba pazzesca. Beh, la storia del calcio che sfila lì. Mi racconti un retroscena, poi cambiamo argomento. No, beh, retroscena, ma Puyol simpaticissimo, era il tavolo più scatenato, la Mesa Nueve, a un certo punto mi sono unito alla Mesa Nueve, lui diceva, vedi, questo è il tavolo, qua ci si diverte, ed era molto molto divertente, l'ho fatto le interviste anche per Tiki-Taka, che vedremo lunedì, con Ranieri siamo tornati un po' sulla sua incredibile cavalcata dell'anno scorso, che è calcio, ma non è tanto calcio, nel senso che è veramente una... impressionante metafora e grande di speranza per tante persone in tanti ambiti, quello che ho fatto in Leicester l'anno scorso. Senti, ha confermato anche a te le dichiarazioni che leggo, cioè scordiamoci totalmente l'anno scorso, quest'anno obiettivo salvezza. Sì, ne ha parlato lungamente con Buffon, insomma io ero lì, non è che lo litighiamo, parlavamo, siamo tutti insieme, è chiaro che la mentalità deve essere diversa rispetto all'anno scorso, probabilmente in Champions questa cosa sta funzionando proprio per questo, perché i Champions sono nuovi e quindi hanno una curiosità e anche da parte degli avversari una minore abitudine, però insomma mi ha raccontato il post partita, per esempio, della sconfitta col Manchester United, le cose che gli ha detto per i gol presi, per i tre gol presi sul calcio d'angolo, insomma è sempre, guarda, cioè è bello parlare di calcio con i grandi, ed è bello farlo soprattutto al di fuori delle circostanze tradizionali, no, della domanda sulla polemica, sulla formazione, è bello farlo soprattutto quando si può chiacchierare di calcio con questi grandi personaggi. Ma lo stesso Deco, che è uno che ha vissuto, magari in Italia lo conosciamo poco perché non c'è mai venuto, ma ha vissuto delle grandissime avventure, un altro personaggio interessante, De Burg, ieri mattina abbiamo chiacchierato un po' anche off records sulle 6 ore di inglese, scusami, di italiano a settimana, sul fatto che l'inglese, meglio lo spagnolo all'inizio gli desse una mano con l'italiano, però poi adesso intrecciano un po' di parole, però lui ha deciso che parla comunque l'italiano perché vuole dare un segnale. Sì, beh, all'Inter devi imparare 80 lingue. No, certo, però guarda, io questa cosa la pensavo anche da prima, no? Che in fondo fosse un atto di coraggio da parte sua, perché non ci prendiamo in giro, è ovvio che il suo inglese, il suo italiano, in certi momenti è ancora molto approssimativo. È interessante, diciamo così. Si presta, ma interessante. Anche a possibili gaffe. Ieri mi sono, avendo fatto di fatto il traduttore della sua conferenza stampa della mattina, mi sono reso conto di quanti rischi ci siano, no? Nel non governare al 100% la lingua, perché per cui per esempio la frase sul Kondogbia che può diventare Pogba. Sì, l'ho letta, mi è venuta una pelle d'oca alta così. Ma no, ma in realtà secondo me è anche possibile, però lui, sai, dice continuamente piccoli dettagli, probabilmente perché una delle parole che ha imparato bene in italiano, magari in inglese sarebbe qualcosa di diverso, magari questi dettagli sarebbero un po' più grandi, no? Però insomma, va bene, io ti dico, la bellezza di questi personaggi è che tutti appartengono a una grande famiglia, che è quella dei grandi campioni. Certo. Poi l'inglese bisognerebbe farlo studiare non solo agli allenatori ma anche ai giocatori. Oggi Hollande ha detto, poi ne parliamo anche con il prossimo ospite ben noto che aspettiamo, ha detto: questi qui sono educati male, devono imparare a usare il cervello, no, tutti i torti non ce li ha. Vabbè, fermiamoci qui. 800 24 00 24, numero verde, siete tutti convocati su tutti gli argomenti. Poi abbiamo anche dichiarazioni di Buffon sulla Juventus, abbiamo il notizione del San Marino che dopo 15 anni e 17 partite ha segnato in Norvegia nel 4-1 finale il primo gol in trasferta, dopo appunto tutto questo tempo. Parleremo anche di Maldini, e qui lancio subito un domandone: Maldini ha detto no, ha chiuso la porta, ha spiegato le ragioni, non voleva fare seconda fassone né secondo a nessuno, non gli piaceva il ruolo, non ritiene un progetto vincente, insomma ha chiuso la porta. Dopo il no di Maldini, secondo voi il Milan dovrebbe cercare un'altra bandiera? Si fa il nome di Albertini, si fa il nome di Ambrosini, si fanno altre congetture, oppure lascia stare il capitolo bandiere? 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovic. Convocati. Io ho già anche qualche messaggio, 349-238-6666, WhatsApp ed SMS. C'è chi scrive, la butta sull'ironia: Beppe Bergomi o Sandro Altobelli o Beccalossi, direttore sportivo del Milan, top, come direbbe Cruciani. Oppure Maldini fare il primo a casa sua, ce ne faremo una ragione. Io saluto la mia penna preferita, Maurizio Crosetti da Repubblica. Ciao Mau. Arrossisco per radio, si può? Dai, smettiamola con le smancerie, va bene. Devi arrossire. Il Brera del 2000, dai. Il Brera del 2000. C'è anche Gian Piero Mughini con noi, ciao Gian Piero, come stai? Dai. Sarei forse un minchione se non facessi queste smancerie al signor Crosetti. Allora, continuiamo sul discorso di prima che abbiamo innescato io e Pardo. Vi faccio sentire Ambrosini sulla affair Maldini. È un'occasione persa indubbiamente, perché insomma una risorsa come Paolo è una risorsa che va sfruttata in un modo o in un altro. Penso che lui sia stato coerente ampiamente con quello che è sempre stata la sua libertà psicologica, che non ha mai nascosto, e che non vuol dire che vola decidere, secondo me, tutto lui. Però probabilmente nella costituzione proprio strutturale della nuova società, secondo me questo passo andava fatto prima, cioè dovevi cercare di coinvolgere Paolo prima, probabilmente anche di scegliere il direttore sportivo, col quale io non conosco, non so come che tipo di lavoro faccia, che chiaramente non è una questione sua, però indubbiamente se vuoi coinvolgere una persona come Paolo, secondo me devi sapere che tipo di persona è. Un po' permalosa forse. Allora, il domandone è: dopo il no di Maldini, il Milan deve cercare un'altra bandiera, tipo Albertini o lo stesso Ambrosini, si fa anche questo nome che abbiamo appena sentito, oppure no? E ragazzi, Pardo e Crosetti, come valutate questo no di Maldini? Vado? Vado io? Vai. Ma il no di Maldini è un no antico, risale alla, anche alla precedente gestione, lui non venne però, mai ti interrompo, nella precedente gestione c'era il nemico Galliani e questo è il segreto di Pulcinella. No, ma volevo dire, certamente, però la precedente gestione c'era il nemico Galliani, gli hanno fatto quel trattamento, preservato quel trattamento terrificante, che quando si è ritirato, neanche la parità di Dio, vabbè, lasciamo stare, o forse non lasciamo stare, perché lui non ha lasciato stare, evidentemente. Però ecco, con Galliani, il nemico Galliani, il vecchio Milan. Con nuovo Milan non è vincente e non lo convince, e poi forse Fassone, forse che sì, forse che no. Ho l'impressione che o qualcuno si è posto male nei suoi confronti, o lui è un po' schizzinoso ed è anche un po' permaloso. Cioè è una storia, secondo me, un pochino più complicata. Sembrano un po' i dispetti dei bambini dell'asilo, no? Da parte di Maldini, dici? Ma da parte un po' di tutti. Cioè, una volta puoi dir di no, ma se dici no oltranza e decidi tu prima che un progetto non è vincente, come fai a dire prima che un progetto non è vincente? Anche se è certo che non convince tutta questa nebbia in Valpadana. Mm-hmm. Non si sa ancora bene. E poi con Belinazzo troveremo un po' di radare. Adesso, tra una decina di giorni, ho letto che prima di questo benedetto closing si sapranno almeno i nomi e i cognomi, anche se poi tu sai i nomi e i cognomi cinesi, senza offesa, e sai quanto prima. No, io almeno che mestiere fanno e quanti soldi hanno. Però almeno, ecco, se cerchi di capire chi sono. Ecco. Però insomma, credo che tutti i progetti meritino, prima di essere proposti, quantomeno una sospensione del giudizio, no? Non si può dire che non è vincente perché forse non ti incastrano nel modo che tu volevi, con quel tipo di spazio che tu credevi. Non mi sembra giusto. Dopodiché, finendo la risposta della tua domanda, una bandiera, se è Albertini, se è Ambrosini, cioè teste, non solo bandiere, cioè la bandiera non basta, bisogna che dietro la bandiera ci sia sostanza. Le bandiere, quindi quei due nomi lì sono uno più di sostanza dell'altro. Altre bandiere meritano di rimanere nel cassetto, ma non a Milan, dico in generale, no? Professione bandiera non è di per sé automaticamente garanzia di efficacia, di successo. Non è garanzia neanche di vitalizio. Mi sembra che le bandiere in questo periodo siano un po' stracciate, no? Totti che decide, non sa bene che fare nella vita. Abbiamo molti altri esempi, del Piero stesso che citava prima Pardo, che è stato allontanato in malo modo dalla Juventus. Chi è caduto? Io ci sono. No, tu ci sei, è caduto Pardo, sì. Che adesso recupereremo. Io ho sempre avuto l'idea che il fatto di essere stato bandiera non ti possa garantire a prescindere un ruolo vitalizio in un club, e dipende anche poi dalle tue capacità e dalle tue conoscenze, perché è un mondo, anche se lo conosci, complicato, in cui districarsi. Pierluigi, ci sei? Sei tornato? Ci sono. No, hai sentito il discorso che facevamo con Maurizio? Ho sentito tutto, ma tra l'altro con una clamorosa resistenza alle gallerie, quasi mi preoccupa, forse sarà un po' difficile tempo, perché veramente vedo tutto. No, sono d'accordo sull'idea che essere stato alla più grande bandiera è probabilmente il giocatore più importante, un buco dei più importanti, perché il Panteo Rossonetto, a beati i tifosi del Milan, è ricchissimo, ma essere stato un giocatore così straordinario non ti può dare una garanzia. Credo in qualche modo le dichiarazioni di Ambrosini però lo dimostrano, che forse qualche errore di comunicazione sia stato commesso anche dall'altra parte. Cioè, la mia sensazione è che poi Paolo Maldini, che conosco poco, dico la verità, sia veramente un uomo tutto d'un pezzo da questo punto di vista, un uomo probabilmente anche con delle astrezze caratteriali, ma certamente un uomo che, se si prende un impegno, poi lo percorre al 100%, senza se e senza ma, col massimo dell'impegno e della professionalità. Quindi ribadisco quello che dicevo i giorni scorsi, io credo che lui un pochino, se vuole cominciare a fare questo lavoro, debba fidarsi, perché altrimenti non si comincia mai. Sì. Secondo me ci sono tutti i presupposti perché possa far bene, perché è una persona intelligente e perché nella storia del calcio ovviamente ha un ruolo importante che gli può essere soltanto utile. Maldini non è stato solo un grande giocatore, è stato un grande giocatore elegante, è stato un grande giocatore corretto, è stato un grande giocatore vincente, cioè tutta una serie di elementi che lo possono realmente oggettivamente aiutare anche nel post carriera. Lui deve fidarsi un po', forse quell'intervista lì, anzi senza forse, non gli ha fatto bene, secondo me non aveva senso. No, sono d'accordo con mentre, te, Bardo, mentre il post d'accordo di ieri, nella sua asprezza, però è un post su Facebook secondo me più riuscito, perché almeno spiega esattamente, sì, senza te, senza ma, il suo punto, no, il suo poi punto c'è, di vista. C'è stata quella frase che io non posso guadagnare meno dei giocatori, non so se mal interpretata, non so se mal detta, non so se mal pensata, però a me forse mai pensata almeno non in questi termini, non lo so. Vabbè, comunque fatto sta che il discorso è questo. Io vi dico per la cronaca che sto ricevendo molti messaggi, poi sentiamo anche le telefonate 800 24 00 24. E il no di Maldini è stato preso molto male dalla stragrande maggioranza dei tifosi rossoneri. Vorrei andare, prima di salutare Maurizio Crosetti, su un altro argomento lanciato ieri da Emiliano Mondonico e subito dopo ho ricevuto il messaggio di un signore che sentiremo domani, non vi dico il nome, che lavora nel settore giovanile di una squadra importantissima, che non ci è rimasto benissimo. Mondonico sui giovani. I giovani che meritano la meritocrazia, giovane meritocrazia, ma non devono essere la moda, non devono essere un alibi. In questo momento non ho ancora capito se tutti questi giovani che giocano nel campionato italiano giochino perché meritano o giochino perché in questo momento è di moda, oppure è un alibi. Alla fine, se le cose vanno bene, sei un eroe. Se le cose vanno male, i giovani bisogna aspettarli, bisogna vedere, bisogna di qui, una palla di qui, una palla di là. Cross, cosa ne pensi? Penso che il mondo, non solo oggi, ma in molte altre occasioni, è davvero l'oracolo di Delfi. Sono d'accordo completamente. L'anagrafe non può mai essere una moda e qui non è sede. Però mi piacerebbe tanto dire che questo ragionamento vale anche fuori dal calcio, fuori dallo sport. Attenzione ai rottamatori, attenzione alle mode, attenzione alle quote anagrafiche, alle quote di sesso, a qualunque tipo di quota se non c'è dentro una vera sostanza. Altrimenti si rischia soltanto di creare delle riserve oppure degli alibi, perché quindi i giovani sono bravi, si fanno giocare. Quando i giovani non sono bravi o non sono ancora bravi, si deve avere anche il coraggio di aspettarli. E vale anche per i dirigenti, mi collego al discorso di prima, perché sì, certo, non abbiamo detto una certo cosa, che se tu sei Maldini, ma non hai mai fatto il dirigente davvero, a parte una parentesi americana, mi pare, no? Sì. Allora è anche giusto, come succede per gli allenatori, fare un po' di gavetta, perché non si nasce imparati nei ruoli di un calcio iperprofessionale. È quello che dicevo io prima, Maurizio. E quindi se sei un calciatore, se sei un dirigente, vale anche per gli allenatori. Quanti ne hanno inceneriti negli ultimi anni, da Inzaghi a Ciro Ferrara a Seedorf, perché non erano ancora pronti? Stramaccioni, ricordate, Stramaccioni sembrava il futuro, il nuovo che avanza, il Renzi della panchina, e poi è un po' sparito anche lui, adesso ricomincia perché ha bisogno anche lui di un percorso di crescita. Quindi il mondo ha ragione, i giovani vanno bene, ma se si esagera con i giovani si finisce nella moda e si dimentica. Si finisce nella moda, si finisce nella moda, magari posso dire una cosa. Secondo me è verissimo, le quote sono sbagliate, le quote, le etichette, le divise, cioè se io sono un giovane bravo non voglio che mi si dia un posto perché sono giovane, ma perché sono bravo, questo non c'è dubbio. Quindi io sono d'accordo con Mao. Detto questo è un paese, parlo di calcio, ma parlo non solo di calcio, non è un paese per giovani, cioè tradizionalmente, storicamente, noi a 40 anni in Italia sei ancora un ragazzino. In altri paesi a 40 anni anche voi telecronisti spesso definite un 25enne sì, un giovane sì, giocatore. Infatti siamo il paese dei bamboccioni che non escono di casa a 30 anni, ed è vero. Ma attenzione, non è un paese per giovani, ma attenzione a non trasformarlo in un paese che non è più, non dico per vecchi, ma per tutti gli altri, per tutti quelli che non sono giovani, certo, e che hanno costruito in tutti gli anni professionalità, esperienza, capacità di lavorare. Guarda, secondo me è un po' come il discorso delle donne, no? Noi abbiamo avuto storicamente delle quote orribili, bassissime di parlamentari donne nella storia, no? Poi a me le quote, l'idea che per decreto ti devo imporre, che non mi piace, perché penso che le persone debbano essere valutate nel merito, e quindi ci sono donne capaci e donne meno capaci, uomini capaci e uomini meno capaci. È un po' lo stesso ragionamento, però che ci sia una propensione nel nostro paese, secondo me, a non rischiare con i giovani, e parlo di calcio, non soltanto di calcio. Quante volte abbiamo detto ci sono dei giovani a 18 anni in Inghilterra che giocano regolarmente? Poi il principio di mondo è un principio fondamentale. Torniamo a discutere domani. Io allargo anche il discorso anche alla questione stranieri. In tutti gli sport, secondo me, al massimo livello professionistico possibile, il passaporto, se regolare, timbrato, rilasciato dalle giuste autorità, conta relativamente poco. Contano i giocatori bravi e quelli che non lo sono. Io ringrazio Maurizio Crosetti come sempre. Ciao Maurizio. Grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao, ci sentiamo subito dopo la borsa. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Andiamo, let's go! Tutti convocati. Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Escobar, pero qué bomba que sacó Pablo. Esto recién arranca. 3 minutos. Gargantas de gol en Bolivia. Escobar con un verdadero golazo. 1-0. Soy el fuego que arde tu piel. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. O aceptar las consecuencias. Saca la espoleta y te vuela el arco. Otra vez Pablo. Minuto 43. Bolivia arriba por 2. Y por Escobar. Te amo. Plata o plomo. Ustedes vienen. E io saluto Marco Perinazzo al Sole 24 Ore. Eccomi, buon pomeriggio. Con questo meraviglioso caso di omonimia, perché sono giocate, come sapete, anche le qualificazioni sudamericane, ieri col Brasile che ha vinto, l'Argentina che ha fatto una figuraccia perdendo 1-0 col Paraguay, il Cile che ha vinto nel segno di Vidal, eccetera eccetera eccetera. Poi c'è stato questo Bolivia-Ecuador 2-2 con doppietta di Pablo Escobar, che non è l'imperatore del narcotraffico ovviamente, ma semplicemente un omonimo Ecuador. Contenti a Netflix con la serie Boliviano. Narcos. Sì. Una pubblicità gratuita. Meravigliosa, no Pardo? Beh sì, ma mi sembra che insomma dopo il caso dell'infortunio finto per evitare l'arresto di 4 giorni fa, mi sembra che insomma, ma le qualificazioni sudamericane sono bellissime sempre, perché poi lì succede di tutto, la formula che le rende divertenti, no? Nel senso che è un girone italiana. Girone italiana. E poi spesso abbiamo delle situazioni di Argentina e Brasile che faticano. Stavolta un po' sorpresa è l'Argentina, mentre il Brasile ha ritrovato la strada. Sì, che l'Argentina fatichi non è una sorpresissima, perché hanno pochi attaccanti del resto. Sì, hanno il problema hanno qualche problema in attacco, potremmo prestargliene qualcuno noi, che so, Pellè per esempio, ormai fatto fuori da Ventura. Ragazzi, prima di interrogare Marco Belinazzo su un sacco di argomenti, a cominciare da... Sì, tra l'altro Carlo, no, volevo sapere, ero curioso di conoscere il risultato di credo Uzbekistan-Cina o qualcosa del genere. La Cina era impegnata in questa partita, che ha perso in casa con la Siria. Che te frega? Beh, è scommesso? No, non ho scommesso, però poi parleremo di Cina, ed è, sarebbe clamoroso per la Cina non qualificarsi per Russia 2018. Invece sai che pensavo all'Azerbaigian, che sta facendo un grande percorso, 7 punti se non sbaglio in 3 partite, pareggio in Repubblica Ceca. Ah, beh, questo è gravissimo. Pure quella è un'economia crescente. L'Uzbekistan, no? Ha vinto 2-0, Cina praticamente fuori da Russia 2018. Attenzione, vengono meno tutti gli investimenti sul calcio, ma comprano i diritti, chi lo sa, magari sai, succede, comprano una licenza, qualcosa succederà, non vi preoccupate. Allora, prima dicevo di interrogare Marco Bellinazzo su appunto argomenti cinesi e non solo. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, salve. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi per un complimento per la trasmissione. Grazie. Bellissima. Volevo solo dire una cosa riguardo anche al discorso delle bandiere prima e soprattutto dei calciatori giovani. Sono persone che vengono idolatrate da schiere di ragazzini e adolescenti e penso che il loro grandissimo compito anche a livello morale e soprattutto la loro responsabilità è l'esempio che danno. Perciò in realtà penso che una bandiera o un calciatore debba essere valutato o comunque anche proposto, comunque aiutato, comunque amato anche per il modo in cui si comporta, il modo in cui tratta le altre persone, l'esempio che dà. Perché per esempio nel caso, ne so, del sovracitato e chiacchieratissimo Balotelli, io non sono un grande esperto di calcio, però penso che sia un messaggio importante da dare. Sì, io credo che questa sia solo una parte della responsabilità dei giocatori. Io credo che i giocatori professionisti non debbano essere presi a modello, ma questo è un discorso che riguarda i rapporti tra genitori e giovani giocatori ed è molto lungo, molto complesso e richiederebbe molto tempo per essere spiegato. Cioè, è chiaro che c'è il tuo giocatore preferito, però devono essere la tua mamma e il tuo papà a spiegarti, non si fa così. Andrea da Milano e poi andiamo in Cina. Sì, ciao. Metaforicamente. Complimenti anche a voi per la trasmissione. Volevo intervenire su Maldini dicendo che secondo me non è necessario che Milan riparta per forza da una bandiera. Condivido il discorso sul fatto che fosse veramente interessato a entrare nel Milan, avrebbe sicuramente accettato senza tergiversare e prendere tempo per rifiutare il passo. E credo che la bandiera per forza non sia la strada da seguire per ora. No, Ciao. Grazie Andrea. Ciao. Grazie Andrea. Pardo, fai tu la prima domanda a Bellinazzo, dai, quale curiosità vuoi toglierti? No, Bellinazzo, fai tu, dai, tema libero. Fai tu, no, tema libero, no, aspetta, tema libero no, perché insomma io un tema ce l'ho. Perché si va verso si va verso il closing del Milan, dei nuovi soci, si sa ancora poco o nulla, verranno svelati i nomi. E dacci anche l'ammontare di cui dispongono, la disponibilità economica, allora, lo status. Chiaro, troppe domande per avere altrettante certezze. Diciamo che c'è la volontà di chiudere e si è anche indicata una data, tra l'altro già uscita, ma è stato preso come punto di riferimento il derby, il prossimo derby di Milano, metà novembre, perché la nuova proprietà cinese del Milan vorrebbe appunto sfidare nella prima partita quella nerazzurra. La lista dei soggetti che parteciperanno al fondo è praticamente chiusa, al momento conta 11 soggetti. Ma perché questo mistero? La mia domanda sarà ingenua. Perché al di là di motivazioni che vanno, diciamo, nell'ambito della psicologia cinese, della filosofia cinese, su cui bisognerebbe interrogare, diciamo, esperti del ramo, ma dal punto di vista giuridico-finanziario, la procedura, il modello che è stato scelto per acquistare il Milan è unico in tutto quello che è stato il processo di colonizzazione del calcio europeo, nel senso che per la prima volta abbiamo di fronte non a una società come Suning o due o tre soggetti come per esempio Citibank, China Media Capital che hanno acquistato il 13% del Manchester City, ma un fondo. Quindi un fondo che al suo interno ha dei soggetti che comprano delle quote per partecipare a questo fondo, che come le comprano le possono vendere e quindi puntano a valorizzarlo, e il presidente di questo fondo sarà tecnicamente non il proprietario del Milan, ma il proprietario di una fettina del Milan, così come tutti quanti gli altri. Mm. Quindi c'è stato, diciamo, un'operazione da parte di chi si è presentato, cioè i due lì, Lee Han e l'altro lì che mi perdonerete ma non riesco a pronunciare diciamo correttamente, quindi mi astengo. Anche se dobbiamo imparare. Dovremmo imparare, infatti sto prendendo lezioni, ma in ogni caso loro due, su cui tanti dubbi ci sono perché non si capisce bene cosa fanno e quale sia la consistenza patrimoniale, questo dobbiamo dire, però saranno come dire capofila di un consorzio per cui hanno preso il Milan, hanno fatto l'affare e poi hanno offerto dei pacchetti a tante società cinesi che hanno aderito o scelto di non aderire. Ripeto, al momento la lista c'è questa lista di 11 soggetti, magari poi da qui al closing entrerà qualcuno di diverso o meno, qualcuno uscirà. Comunque la disponibilità e l'impegno da parte di questi 11 a versare i 420 milioni e passa che mancano c'è, oltre 100 milioni già in mano a Fininvest, e si sta diciamo correndo verso il closing con tutte le incognite diciamo che bisogna comunque riconoscere e bisogna accettare perché circondano questa trattativa che è la più complessa penso della storia del calcio mondiale. Questo di sicuro, tanto che nonostante la perfetta spiegazione di Marco Belinazzo, Pardo, a me sembra già di essere a novembre con la nebbia su Milano e su quel derby. Sì, a me, no, io stavo pensando quando Belli diceva del derby, no? Il primo derby cinese a 15 anni fa, 20 anni fa, quando leggevo come tutti, insomma, cominciavamo a fare il fantacalcio, eravamo adolescenti, robe. Insomma, se ci avessero detto che il derby di Milano sarebbe stato tra due proprietari cinesi, penso che avremmo dato dei matti a qualcuno. Però vabbè, sì. Il mondo va così, va benissimo, non voglio fare il passatista, quindi aspettiamo. È la psicologia. Ho capito che il problema è la psicologia cinese, ma da questa conversazione ho capito che il problema sta perché insomma, la vicenda è complessa. Poi, per carità, non è facile vendere un club, non è facile soprattutto venderlo a un pool di soggetti come ci ha spiegato Belinazzo. Poi ci sono stati soprattutto nella prima fase tutta una serie di aspetti psicologici legati invece a Silvio Berlusconi, perché sappiamo che questa trattativa ci sembra che duri da una vita, in effetti dura da una vita perché c'è stato tutto un periodo nel quale sono arrivate proposte ma Berlusconi non se la sentiva legittimamente di vendere perché comunque era legato al club dal punto di vista sentimentale, quindi sicuramente anche questo ha dilatato la percezione, no, di questa storia che è veramente una telenovela infinita. Però insomma, quindi scusa Benignazzo, i tifosi del Milan possono stare tranquilli? Aspetta un attimo, risponde subito dopo il traffico, siamo in un ritardo clamoroso. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Allora, prima di riprendere i discorsi con Marco Belinazzo e Pierluigi Pardo, Riccardo da Livorno che aspetta da un po'. Dica. Sì, buonasera, salve a tutti. Io voglio parlare un po' di Paolo Maldini, che ho trovato praticamente poco elegante, al contrario di come era da giocatore, ecco. Praticamente anche poco umile, perché il discorso sullo stipendio se lo poteva risparmiare. E poi non penso che il signor Maldini abbia le competenze per diventare subito un dirigente e iniziare così un'avventura con una nuova società che tra l'altro è una grossa società da quello che ho capito io, e quindi ecco, questo l'ho trovato poco elegante e poco umile, tutto il contrario di quello di come era da giocatore. Sì, questo è un discorso che fanno molti, che questo è il pensiero di molti milanisti, lo leggo anche dai messaggi, ed è un discorso secondo me anche in parte condivisibile. Magagliani resta? Sente dire da qualche parte? Credo che Galliani insomma sia assolutamente incompatibile con Fassone, con qualsiasi altro organigramma del Milan che non lo veda al centro. anche perché ha, come dire, subito quella che è stata la diarchia degli ultimi anni, che ha prodotto i risultati economici e sportivi che sono sotto gli occhi di tutti, e quindi non credo voglia ripetere esperienze di questo tipo. E d'altronde la proprietà cinese vuole rompere, diciamo, con il passato e avviare un discorso diverso. Corretta. Credo che proprio un minuto se, mi viene da dire sulla questione bandiere, no? Secondo me si è creato un cortocircuito mediatico e anche voglio dire non utile al percorso che sta facendo il Milan, nel senso che l'intenzione che aveva la cordata cinese era quella di avere un soggetto che fosse appunto un'anima del Milan, che rappresentasse la storia del Milan. Chiaramente allo stesso tempo i soggetti che sono stati interpellati come Maldini rappresentano talmente tanto il Milan che nel momento in cui entrassero in questa società, come dire, si assumerebbero una responsabilità enorme e catalizzerebbero la fiducia dei tifosi, perché nel momento in cui uno entra, allora da questo punto di vista io ritengo, ecco, che qualora Maldini avesse espresso dubbi perché non è ancora chiara la proprietà, non è ancora chiaro il progetto, avrebbe assolutamente ragione, perché è giusto che se mi impegno io, che sono una bandiera del Milan, voglio chiarezza sulla proprietà e sulle prospettive, e bastava dirlo. Le motivazioni che sono state addotte anche nei suoi messaggi sul suo ruolo, sui poteri e soltanto, mi sembrano talmente premature che hanno finito in qualche modo per metterlo in torto, e certo, mi sembra che la reazione degli ascoltatori si lascio gli ultimi 30 linea. Secondi a Pierluigi Pardo, poi Marco Dominazzi. Allora, ti faccio la domanda: da 1 a 10 quanto devono essere tranquilli e ottimisti i tifosi del Milan? Beh, credo che si possa essere, sai, ottimisti, nel senso che ci sono comunque 100 milioni in cassa, e quindi male che vada il Milan copre il buco e fa un po' di mercato a gennaio, e lo farebbe Fininvest qualora la trattativa saltasse. Però devo dire che tutti i segnali che arrivano sono assolutamente confortanti sulla volontà di voler chiudere a breve, di voler lanciare un nuovo progetto per il Milan. Ci sono, ripeto, dubbi però su questa struttura, sul fatto che ci sia un fondo, sul fatto che ci siano troppi soggetti poi coinvolti. Allora lì tutto dipenderà dall'avere però una società, come dire, molto definita nei suoi ruoli, nei suoi poteri, quindi anche se c'è un fondo che è appunto proprietario, il management se è forte potrebbe supplire, allora, a questa ragazzi, confusione. Devo chiudere questa ora, saluto Pierluigi Pardo, lascio tornare da Monte Carlo. Ciao Pier, mi terrò dopo il GR altri 5 minuti Marco Belinazzo, perché è un altro paio di temi da affrontare, e poi soprattutto Belinazzo annuncerà il nome del nuovo centravanti del suo Napoli dopo sono voci, sono voci. Ma che voci, me l'hai detto con certezza. Tutti convocati. Questo si fa fatica, ragazzi. Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Allora, ho incatenato alla seggiola Marco Belinazzo per altri 5 minuti perché mi deve spiegare un paio di altre cose. A cominciare da... è stato scritto oggi anche sul Sole 24 Ore a chiare lettere. Ci sono Real Madrid e Barcellona che hanno stanziato diversi quattrini per ristrutturare il Santiago Bernabéu e il Camp Nou, che non sono esattamente in condizioni così degradate, no? Cioè, dai quali incassano più di 100 milioni. Lo stadio azzurro di Bergamo, tanto per fare un esempio. Che tra l'altro è l'uno dei pochi che stiamo provando a ristrutturare, che si sta andando a ristrutturare. No, oggi abbiamo fatto questa inchiesta sul Sole, sull'impiantistica sportiva in Italia, in particolare sul fatto che dal mancato adeguamento di stadi e impianti sportivi in genere, il movimento sportivo italiano perde almeno 750 milioni all'anno di mancati introiti. Sì. Di fronte a questo, Real e Barcellona, che incassano ogni anno da soli solo 100 milioni, hanno investito un miliardo. Stanno investendo un miliardo, hanno trovato gli accordi con i comuni, segno che si può fare, trovare accordi con i comuni. Barcellona 600 milioni, parentesi. Barcellona 600 milioni, Real 400 milioni di investimenti, e da qui al 2020-21 avranno i nuovi stadi, il nuovo Santiago Bernabéu, a cui forse si associerà il nome, quindi sarà venduto una parte nel naming rights, e il nuovo Camp Nou, che dovrebbe invece essere venduto interamente per quanto riguarda i naming rights, quindi si chiamerà in un altro modo. Il Real non vuole rinunciare al nome Santiago Bernabéu, quindi associerà a questo nome un altro. Sì. In ogni caso, pianificazione di investimenti per 1 miliardo di euro di stadi che proprio fatiscenti non erano. No, assolutamente. No, viene da domandarsi, insomma, se anche Barcellona e in parte Real Madrid accettano queste partnership così economiche, vuol dire, cioè, non è una bestemmia. No, credo assolutamente. Io penso allo Juventus Stadium, che è ancora una denominazione, non ce l'ha. Sì, l'aveva in realtà venduto a Sport 5 i diritti di intitolazione, cioè Sport 5 avrebbe dovuto trovare in questi anni, o dovrebbe provare nei prossimi anni, uno sponsor per affiancare il naming rights dello Juventus Stadium, più altri diritti, diciamo, pubblicitari che si era accaparrati Sport 5. Mm-hmm. In questi anni evidentemente non sono arrivate offerte adeguate e non si è voluto svilire quello che è un asset importante, perché squadre così rilevanti possono ottenere dai naming rights, diciamo, tra i 5 e i 10 milioni all'anno. Cifre, uh-huh, come dire, non certo secondarie. Pensiamo al Manchester, che ha venduto ad AON, l'ex sponsor principale, addirittura i naming rights della sua serie di allenamento. Sì, ci ricava circa 8 milioni all'anno. Noi siamo tradizionalisti e questa idea ci fa imbestialire in maniera pazzesca. Allora, dato che Milik si è infortunato, sì, Napoli percepirà qualcosa come 500.000 euro, sì, per questo infortunio. Se dovesse restare fuori un po' di più, qualcosa in più, ma insomma siamo lì. Poi possiamo aprire un lungo discorso che faremo una volta su questi infortuni in nazionale. Indennizzati oltre i 28 giorni sì, di, se ti fai male, di prognosi. E intanto si continua a parlare di estensione delle competizioni, di moltiplicazione delle partite, eccetera, eccetera. Mi hai promesso sì, a tutti gli ascoltatori il nome del nuovo attaccante del Napoli. Tu sei davvero cinico, insomma, vuoi mettermi assolutamente in difficoltà. Io in un momento di larità ti ho detto che erano stati sondati Bruno Giordano e Andrea Carnevale, che hanno rifiutato, e si parlava di Paolo Dal Fiume, grande attaccante di Perugia e Napoli degli anni 70. No, ma scherzavamo in funzione del fatto che oggettivamente, parlandosi di 38enni o 40enni come Klose, come possibili sostituti, insomma, si sta provando a porre rimedio a quello che è un guaio. Che è un guaio per una società che ha pianificato la sua stagione intorno a un centravanti, investendo oltre 30 milioni. Anche quando mi dicevi tu prima, off record è reale, cioè io perdo il centravanti, mi prendo magari mezzo milione, però perdo il mio centravanti, magari resto fuori dalla Champions League, e poi quei soldi che mi ridà, quei 40 milioni che mi ridà. Io ho provato a scrivere ieri un pezzo in cui ho parlato di un po' provocatoriamente di anacronismo delle nazionali e di un sistema che, appunto, a parte lasciare completamente vuote le casse di società che perdono giocatori per 4 settimane, quindi meno di un mese, tipo Piazza alla Juve, no? Ma anche quando tu hai un infortunio così grave e ti arriva, mettiamo 1 milione, però sì, hai puntato la stagione su un centravanti, il tuo attaccante principale, mettiamo che non recuperi diciamo così come si spera, e quindi comunque hai investito 30 milioni e hai un danno reale. In più, magari non riesci a qualificarti per la Champions e quei 40 milioni che perdi, chi te li ridà? Altro che reale. E nel frattempo si parla di tornei nazionali negli anni dispari, mondiali a 48, europei a 24, e a mio avviso va ripensato, ne parlavamo prima, il rapporto tra club e nazionali, e forse quell'idea di concentrare le partite, almeno delle squadre nazionali più importanti, in un mese come può essere giugno. Quella è l'idea più logica, più razionale, e che io penso, per varie ragioni, non vedremo forse mai. Sai, UEFA e FIFA, moltiplicando le partite nazionali, si sono resi conto che hanno appeal, che comunque c'è un romanticismo, sì, senso di appartenenza, sì, e quindi arrivano soldi anche per le federazioni, e quindi cercano di fare il loro gioco. Ma l'assurdità è che i giocatori sono di proprietà dei club, sono lavoratori dipendenti, è come se tu, appunto, fossi assunto da un'azienda, e aggiungere infungibili. Aggiungiamo infungibili, perché se ti si fa male un centravanti come Milik, che fai? Cioè, non puoi prendere, appunto, i giocatori degli anni 70, devi andare avanti così, oppure non magari è una macchina che hai prestato e cui si è fuso il motore, ma appunto la macchina sostitutiva. Non c'è la macchina sostitutiva. Marco Berinazzo, ti ringrazio, ci vediamo prestissimo. A prestissimo. Adesso accendiamo un attimo la TV. Insigne cambia gioco, eccolo Darmian, solo Soletto, vediamo lo stop, mette giù il pallone, centralmente c'è Pellè, eccolo verso Pellè, sì! Pellè, tutti quanti, voleva fare Tohir. Esatto. Quello che esatto, ha fatto Tohir. Esatto. Poi, ecco, però non dichiarato. Sì. Perché era una cosa che va in contrasto con quello che viviamo. Io faccio noi. Fatica ad accettare un discorso di questo tipo. Lo so, però fa fatica. Diciamo, però Massimo, sei d'accordo? No, può succedere. Alla lunga migliora anche per il tifoso. Perché può succedere, vorrei soldi, però devi essere famoso, allora, devi vincere. L'ultimo colpo di acceleratore. Sì, sì, sì. Super aria verso il cielo. Rossi c'è. E vince il Gran Premio di Spagna davanti a Jorge Lorenzo e a Marc Márquez. È l'Inter l'antagonista? La corsa, sì, l'Inter adesso, sì, per adesso penso sia la favorita. Buoni, stai parlando insieme, c'è un momento di difficoltà fra le parti. Che direbbe lei a questo punto? Sì. Canada. Prima Seba, poi buono Andrea sta dietro. Seba, prego. Puntata numero 3142 della Domenica Sportiva. Tantissimi temi, puntata ricchissima, ma soprattutto c'è un'Italia che tiene tutti col fiato sospeso fino all'ultimo. Rischia di perdere veramente di brutto a Skopje con la Macedonia. Alla fine a tempo scaduto vince la nazionale di Giampiero Ventura, aggancia la Spagna in testa al girone G di qualificazione. Antonio Di Polino della Repubblica, una delle penne più temute da chi fa TV. Buongiorno Antonio, ciao, grazie. Buongiorno a voi, grazie a voi. Ti ho fatto sentire un po' di cose, eh? Era un bel mischione. Sì, un bel mischione. Sport TV. Allora, l'altro giorno Leo Turrini mi diceva, tra il serio e il faceto, più faceto che serio, che forse sarebbe stato meglio. Zac gli è piaciuto molto, piace molto a tanti, non a tutti, ad esempio da Aldo Grasso no, come spalla tecnica del commento di Rimedio. Lui diceva, forse era meglio Ventura dietro il microfono e Zaccheroni in panchina. Ma al di là di questa battuta, come ti sembra, sì, come ti sembra Zaccheroni? Ma io davvero grande rilevanza al discorso chi è il telecronista della nazionale e chi c'è con lui, credo di non riuscire a dare appunto questa rilevanza da Pizzulli in avanti. Se andiamo un po' indietro a vedere, sai, c'era una unicità allora con queste, sì, figure mitiche che peraltro senza social e senza tanto casino intorno venivano anche abbastanza criticate ai tempi. Da lì in avanti, se ci pensiamo, quel discorso ha perso davvero rilevanza anche per mancanza di personaggi clamorosi che non sì, ci sono stati. Anche per un lunghissimo turnover, cioè per un turnover che dura da molto tempo. Sì, ma scusami, ma il turnover è dovuto appunto a quello. Nessuno si è imposto come voce ufficiale e imprescindibile per raccontare, per esempio, la nazionale in questo caso. Ci ricordiamo vagamente che Civoli disse il cielo azzurro sopra Berlino ed era una vittoria dei mondiali, mentre invece basta andare a pensare a Martellini e si entra in un'aura di leggenda. Chiaramente non c'è mai più stato da allora in avanti una figura ipercentrale, il Carosio 2.0 per intenderci, non c'è stato. C'è stato appunto l'ampio turnover, ma motivato da quello che abbiamo detto. Poi è chiaro, siamo in un'epoca in cui queste cose arriva Zenga e se ne parla molto, poi Zenga si piglia la panchina appena può e quindi non è una cosa serissima in sé. Ormai cioè, la nazionale dipende da quello che fanno quelli quando vanno in campo in prima serata per 8, 9, 10 milioni di spettatori, come è stato ancora per la Macedonia, e la televisione comunque ascolti simili ormai se li sogna completamente, li fa una due volte l'anno e solo con il grande calcio in chiaro, quando ci riesce, quando può darlo, e sì, c'è un telecronista che parla troppo, c'è un telecronista che parla poco, è diventato abbastanza primo, secondario e ininfluente. Il problema, per esempio, a inizio stagione, che lo disse Romagnoli, nuovo capo di Rai Sport, disse: Rimedio è bravo, ma se chiedete a tutti in giro chi diavolo è quello che sta parlando e commentando la nazionale, non lo sanno, e quindi deve imporsi, deve farsi vedere di più, c'ha anche gli occhi azzurri. Siamo dietro a queste cose qui, non è rilevantissimo. Dimmi. Beh, sai, devo dire che è anche un segno dei tempi, cioè anche nel basket sono pure bravi, però Aldo Giordani, il guru, non c'è più da anni, e Franco Bragagna, insomma, ci sono state delle voci storiche che faticano, Gian Piero Galeazzi, che faticano ora ad imporsi. Non so se per inesperienza, per mancanza di notorietà o per questo continuo turnover. Antonio, io ti voglio chiedere, tanto Pardo non c'è, magari ci sente, però... I talk show sportivi in Italia, che futuro vedi? Beh, anche lì vedo un futuro sempre meno rilevante, ma non è neanche tanto colpa loro. Ormai ognuno sulla partita di calcio, sull'impegno della squadra di cui è tifoso, per esempio, si può costruire un format personale completamente diverso, che è fatto per esempio anche dal seguire via Twitter durante la partita sul famoso secondo schermo il proprio gruppo di tifosi preferiti. Lo faccio io, figuriamoci se non lo fa un vero tifoso forte, comunque, che gli interessa solo quello. A quel punto si gioca la partita, l'hai già commentata o vista commentare in diretta via social, senti una cosa, senti un'intervista dopo, e diciamo che il problema vero di oggi è che appena esce il tuo allenatore della tua squadra, fa i commenti da una parte, li fa dall'altra, li fa alla fine nella terza televisione, il discorso lì sì, cioè l'hai già stracommentata così, e questo senti, ma è voglio chiederti una cosa per curiosità mia, ma se tu dovessi costruire un format per un talk show sportivo, diciamo non nell'immediato dopo partita, non la puntata 6.980.000 della domenica sportiva, tu come lo vedresti? Come lo faresti? Io metterei due persone in studio, un giornalista pallutissimo, per intenderci, e molto insidioso, insidiante e con la voglia di insidiare, un grande esperto, una volta anche qui, andiamo sempre a ricordare il Tosatti della situazione, oggi Sconcerti che ci prova in quel modo, due persone, non di più, guai di più, e un intervento continuo di immagini, filmati, brevi dichiarazioni da fuori e tutto quanto, per macinare a gran ritmo discorsi e dire cose molto forti e molto che possono passare in poco tempo. Sì. Non farei, cioè ridurrei il più possibile ormai il dibattito a più voci, che temo ovunque abbia fatto un po' il suo tempo. Insomma, stile radiofonico, facciamo tutti convocati in TV? Beh, parliamone sicuramente, ma tu sai cosa fa il video a quelli che sono le star delle radio, mi raccomando, si può anche, come dire, finire in un'altra dimensione. In un'altra dimensione, mentre va bene questa. Ti chiedo un'ultima cosa, Antonio, invece, al di là del calcio, gusto personale, abbiamo sentito prima Guido Meda, commentare, ma Guido Meda è un mio amico, mi appassiona, a me piace. Ti piace di più come viene raccontato il moto mondiale da Guido Meda, o ti piace di più come viene raccontata la Formula 1 da Carlo Manzini e dai suoi talent e collaboratori? È abbastanza insidioso, appunto, come domanda, come dicevamo. No, ma prima. gusto personale, Antonio. No, poi puoi anche rispondere, allora, mi piacciono tutti e due. Allora, il fatto che Guido abbia imposto se stesso un modo, d'ora in poi nessuno potrà più prescindere da lui se vorrà commentare le moto, lo pone sicuramente a un gradino più alto. Panzini, la Formula 1, eccetera, è invece investe più un discorso di esclusività, non esclusività del prodotto, quando c'è anche la Rai insieme io tendo a guardare la Rai perché comunque molta più gente sta guardando evidentemente sulla Rai la cosa, cioè ci si perde un po' nel discorso, mentre invece l'esclusività del motomondiale favorisce Guido Meda in questo senso. Dopodiché lui ha costruito una storia, ha fatto dello storytelling, dico la parolaccia che è di moda, e quindi da questo punto di vista sta un gradino sopra forse chiunque altro in questo momento nello sport. Adesso sto per parlare con un'altra grande voce televisiva ed è un altro mio amico ed è Jerry De Rosa che da stasera commenta su Fox tra le altre cose l'Eurolega. Jerry è uno davvero bravo anche per l'Eurolega. Viva l'Eurolega, grazie Antonio. Beh, Di Pollina, assolutamente, alla prossima, ciao, arrivederci Jerry, ti ho presentato bene? Ciao, molto bene, viva l'Eurolega, sono d'accordissimo, cosa viva più bella che c'è secondo il mio parere. Allora, il lettore del giornale che lo sfoglia la mattina al bar e che arriva alle pagine del basket, legge: comincia l'Eurolega formato NBA. Spieghiamo per bene che cosa succede da questa sera, cose che tu racconterai appunto per Fox, da superstar dei telecronisti basketari? Ma guarda, giusto per fare il paragone col calcio, per essere proprio più semplice possibile, 16 squadre, un campionato, tutte incontrano tutte, girano l'Italia all'andata e ritorno, quindi sono 30 partite, esattamente come il campionato italiano di basket, e alla fine le migliori 8 fanno i playoff, quarti di finale al meglio delle 5 partite, poi le migliori 4 fanno le Final Four, il che vuol dire che ogni squadra ha 30 partite garantite, 15 in casa, e che sono radunate le 16 migliori squadre d'Europa, quindi ogni settimana c'è un super scontro. Diciamo che è avviata, se ne è parlato tanto negli ultimi 10-15 anni, è avviata la strada verso quella Superlega della quale si parla tanto anche nel calcio, insomma non ci siamo ancora arrivati, ma la strada è proprio questa. E posso dirti che a me non dispiace? Sulla carta neanche a me, adesso poi come ogni cosa va vista all'atto pratico. Di sicuro io ho guardato il nostro palinsesto, noi faremo vedere 4 partite alla settimana e non ce n'è una molto interessante che non potrebbe essere per esempio una semifinale o un quarto di finale, il che vuol dire che il livello è altissimo e c'è stata anche da parte loro Lega un lavoro televisivo, c'è uniformità nella produzione televisiva, quindi non ci saranno più le immagini che arriveranno dalla Russia o dalla Turchia secondo le bizze del regista di turno, ci sarà una forma televisiva un po' come succede per la Champions League, che aumenterà senz'altro lo spettacolo. Quindi da questa sera si comincia, domani Milano in campo con il Maccabi Tel Aviv, oggi leggo sulla Gazzetta dello Sport i voti dei ranking, il ranking, la griglia di partenza di questa Eurolega. La sei d'accordo sul fatto che il CSKA Mosca sia la grande favorita, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport? Sì, io ne vedo due sulle due finaliste dell'anno scorso, CSKA e Fenerbahce, perché hanno cambiato pochissimo e hanno messo un paio di tasselli, Fenerbahce addirittura uno solo, è riuscito a tenere tutte le sue stelle. Poi la storia dell'Eurolega lo dice, bisogna un po' soffrire e poi si vince. Fenerbahce c'è 2 anni che soffre, che fa le Final Four, prima la semifinale e poi la finale, l'evoluzione ci potrebbe dire che da Tome potrebbe sollevare la Coppa quest'anno, però, e poi c'è un discorso in più, Final Four ad Istanbul, il che vuol dire insomma che sarà una grossa spinta, e sono 4 squadre di Istanbul tra le 16, non mi stupirei di vedere una semifinale, addirittura una finale come un derby, insomma. Ti chiedo un'ultima cosa, come vedi i primi vagiti di questo campionato di Serie A? Ma è interessante perché le partite sono equilibrate, anche Milano vince ma fa fatica, non è la miglior Milano, quella che tutti ci aspettavamo, però è vero che Milano è lunga e profonda, però poi alla fine a basket si gioca in 5 e per Repesce non è mai semplice scegliere chi mettere in campo in determinati momenti, e su questo possono lavorare le altre. Di sicuro sulla carta il gap si è ampliato fra Milano e le altre, però la storia ci dice che poi bisogna vincere per davvero e insomma il doppio impegno per Milan, sarà una settimana in cui avrà 4 partite da giocare, potrebbe essere diciamo un vantaggio per gli altri. Io attendo molto equilibrato diciamo per gran parte la regular season, ovviamente poi dipenderà da come giocherà Milano, perché chiaro, se farà la Milano che ci aspettiamo, insomma il vincitore è già abbastanza scritto. Sì, sono d'accordo, il che non è un bene per nessuno sport, e questo lo sappiamo perfettamente. Buon lavoro Jerry, ci sentiamo da stasera su Fox con l'Eurolega. Grazie Jerry De Rosa, chiudiamo qui questa puntata. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzoni in redazione. Domani ci ribecchiamo verso le 2, poco dopo le 2. Ciao a tutti ragazzi. Pisa il rosso, devi pisa stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!